Giovanni Minoli. Si odono quattro spari, l'assalitore cade a terra, mentre all'interno del Parlamento il leader della Camera dei Comuni, David Lidington, sospende la seduta in corso. Il primo ministro, Theresa May, viene portata via e messa in sicurezza. Quando il Big Ben rintocca alle 18, Scotland Yard conferma la natura terroristica. So don't call me baby. Chiunque abbia voluto colpire Westminster sapeva perfettamente che andava a ferire il simbolo stesso della democrazia occidentale. Come il Bataclan era il simbolo delle libertà, come Nizza era l'attacco alla festa della rivoluzione e delle famiglie. Bentornati a Mix 24, con Londra dunque l'Europa rimpiombata nell'incubo degli attentati. Giuliano Tavaroli, buongiorno, uno dei più importanti esperti di sicurezza nazionale e internazionale. Tavaroli, sono sempre più i lupi solitari, l'abbiamo visto in tutti questi casi, i firmatari di questi attacchi terroristici. È il segno di un cambio di strategia del terrorismo? Che è una strategia, buongiorno a tutti, buongiorno. Largamente annunciata, che ormai incomincia ad avere anche una storiografia che ci racconta molto della minaccia terroristica nei nostri paesi occidentali. Ecco, ma per l'MI6, cioè il servizio di sicurezza inglese, si tratta di uno smacco senza precedenti, un attacco a Westminster? Ovviamente era, come sempre, questi attacchi sono largamente annunciati, temuti, ma poi la capacità reale delle nostre democrazie di prevenire è difficile. È molto limitata. Si può limitare l'impatto, come è successo ieri, quando la polizia ha potuto intervenire, però poi la conta delle vittime e dei danni è sempre drammatica. Senta, ma il premier turco Erdogan proprio ieri aveva messo in guardia l'Europa. Era più una minaccia o un avviso? Io penso che fosse un avviso, e soprattutto da parte di un paese che tiene in ostaggio una popolazione e che la maltratta, direi, di migranti, da cui credo loro traggano molte informazioni, molte indicazioni. Ma la radicalizzazione veloce è figlia della rete? Certamente sì, ieri Twitter ha annunciato di aver chiuso 400.000 account, ma tanti ne chiudono, altrettanti ne verranno aperti. È chiaro che una linea, una certa continuità fra diversi profili di attentatori nati nel paese, residenti nel paese, migranti come Hamzi, pare che tutti questi personaggi siano legati poi a un intenso rapporto con la radicalizzazione in rete. Ecco Tavaroli, ma troppa tecnologia e troppo poco rapporto con il territorio sono un limite per le indagini? Io credo che c'è un metodo, diciamo, italiano, dove le nostre forze di polizia sono super qualificate e con una magistratura e con l'intelligence super capace, che ha tradizionalmente un rapporto molto forte con i vicini, col territorio, con le attività di controllo del territorio. È chiaro che oggi bisogna investire molto anche sull'intelligence digitale. In questo mondo senza confini, entrambi i lati della medaglia si devono integrare, governati. Certo. Senta, un'ultima domanda: sono state colpite tutte le capitali europee, meno l'Italia, ma secondo lei c'è una ragione, fortuna oppure... Probabilmente diverse ragioni. Uno, quello che dicevo prima, noi siamo abituati a autoflagellarci, ma i nostri sistemi di sicurezza non sono dei peggiori al mondo e abbiamo una lunga tradizione, una lunga competenza, semmai è un problema di risorse. Poi siamo un paese ospitale, siamo un paese che negli ultimi mesi ha salvato dal mare 18.000 migranti di varie nazionalità. Io credo che sono tanti fattori, rimane la domanda che non ci può far stare tranquilli. Anche perché ci sarà la festa dei 60 anni dell'Europa tra pochi giorni, quindi... Sì, perché un fatto è certo, tutti questi attentati scelgono momenti altamente simbolici, e noi ne abbiamo molti nella nostra vita quotidiana. Di situazioni e luoghi altamente simbolici. Va bene, speriamo. Grazie Tavaroli, grazie. Grazie Mario. Insomma, c'è l'intelligence che tiene davanti a questa strategia del lupo solitario. Non c'è intelligence che ce la può fare. È imparabile. È imparabile. No, dovrebbero dovuto chiudere il London Bridge, poi anche l'accesso a Westminster. Ma insomma, niente. È imparabile. Senti, è la paura verso il tuo vicino, Pietrangelo, viene alimentata a mille da fatti come questo, no? Cioè si tende sempre più a vedere il pericolo in ogni altro. Questo sì, però bisognerebbe passarsi una mano sulla coscienza, perché la maggior parte di questi casi, se non la totalità, Mario, non so se mi puoi aiutare, dov'è? Nel fatto che questi sono stati foraggiati, incoraggiati nelle primavere arabe, e purtroppo la maggior parte di loro vengono dall'Europa. Ah. Vengono dall'Europa e sono stati sostenuti dall'establishment europeo, certo, in quella sciagurata e dissennata campagna delle primavere arabe e poi della guerra in Siria. Una vengono tutti illusione dall'Europa. Bene, adesso un faccia a faccia con un imprenditore a capo di una piccola, grande eccellenza italiana, l'Aurora. Il faccia a faccia. Cesare Verona, torinese, 55 anni, sposato con due figlie, presidente e amministratore delegato di Aurora, la più antica fabbrica italiana di penne stilografiche. Laurea in economia e commercio, 23 anni, inizia a lavorare per la Olivetti, poi, dopo un colloquio avvenuto in macchina, con lo Annino lo vuole con sé. Nel 93, richiamato dal padre Franco, torna in azienda, dove dice: mio padre mi ha lasciato pascolare per un po'. Due generazioni a confronto, al padre dice: voglio occuparmi dell'estero. Il padre risponde: no. Così, 4 anni fa, compra tutte le azioni del resto della famiglia e diventa capo unico dell'azienda, rivoluzionando e puntando, come voleva lui, tutto sull'export. Oggi l'Aurora è passata dal 3 al 65% di fatturato proveniente dall'estero, con l'obiettivo di arrivare all'88%. Allora, Verona, alla sua domanda perché non posso occuparmi dall'estero, suo padre ha risposto: perché no? Quel perché no è diventato il suo motto per fare le cose, così. È una sfida. Senta, ma una risposta non motivata è una non risposta. Nel mio caso, in quel momento, per me no. Ma lei ha mai detto a un altro perché no? Devo essere sincero, sì. Ah, aveva ragione suo padre. Non lo so. È una strada. Oggi però i numeri hanno dato ragione a lei. Il grosso del fatturato dell'Aurora arriva proprio dall'estero. Anche suo padre alla fine le ha dato ragione o no? Diciamo di sì. Ah, non è proprio sicuro. Non lo so. Ah, non lo sa. Perché? Perché papà non ha mai fatto grandi complimenti, per cui... Neanche con l'80%, l'88% del fatturato che viene ci da fuori. Ci dobbiamo ancora arrivare, però diciamo che siamo sulla strada buona. Va bene. Lei ha detto: non siamo imprenditori per diritto divino, però lei è la quarta generazione della famiglia, quindi... Non per diritto divino, ma per diritto di nascita, sì. La logica era: bisogna provare a essere capaci di essere imprenditori. Non è banale, ma non è un qualche cosa che uno nasce e lo diventa. Non e è lo automatico. È. Non è automatico. Ecco, ma quindi, Verona, lei crede o no nel capitalismo familiare? Assolutamente sì. Sì. Ma a patto però che ce ne sia uno solo che comanda. Questo diceva mio padre e ho capito che era la cosa giusta. Aveva ragione. Ecco, e suo padre che capo è stato? Cosa le ha insegnato di importante, a parte il fatto che ci vuole un capo solo? Etica, lavoro, intelligenza, flessibilità. E lei che capo è? Ma mi dicono insopportabile, cattivo, forse quindi spiritoso, forse, non lo so. Senta Verona, senta cosa mi ha detto un altro imprenditore, Daniele Ferrero, che è l'amministratore delegato di Venchi, anche lui piemontese, a proposito del capitalismo familiare. È vero che nella sua azienda è vietato per statuto assumere consanguinei? Allora, più che per statuto, è un codice etico che ci siamo dati ed è vietato ai dirigenti, consigli di amministrazione e agli azionisti. Non è vietato, diciamo, poi per tutto il resto della... Quindi se uno dei suoi tre figli domani le chiedesse di occuparsi dell'azienda, lei glielo vieta? Assolutamente no. Ma è troppo drastico o ha ragione? Secondo me è drastico, però c'è un fondo di verità e bisogna guadagnarsi la capacità. Di nuovo non è un diritto dinastico. E le sue figlie che fanno? Per il momento studiano. Va bene, se però... l'aspetta in azienda o no? Lo spero, però non deve essere un obbligo. Non è automatico. Lei ha iniziato come marketing manager, poi è passato ad essere export manager, trascorrendo 220 giorni all'anno all'estero. È così che ha capito che l'unico modo per salvare l'Aurora era puntare sull'estero. Più che altro ho capito molto come sono fatti i consumatori nel mondo, e ho capito le sensibilità e ho capito le culture, e questo mi è servito. Ma perché suo padre non l'aveva capito o non voleva capirlo? Perché gli anni 60 andavano bene, per cui forse non c'era bisogno di sbattersi così tanto. Senta, ma come mai con l'Annino le ha fatto un colloquio in automobile? Perché eravamo a Milano in CIR e non aveva tempo, e a 180 all'ora sulla Milano-Mantova mi ha detto: va bene. Ok, venga, da me. È andato bene, insomma. Non lo so, io avevo un po' di paura, ma andava bene. Paura di come guidava. Sì, ma poi ho capito che si poteva andare a 180 su quella strada. Senta, Verona, l'Aurora nasce nel 1919, il suo bisnonno Cesare è stato il primo importatore dagli Stati Uniti della prima macchina da scrivere in Italia, la Remington. Da allora la sua famiglia lavora, lo che abbiamo sentito, nel mondo della scrittura. Ma oggi la scrittura non sta andando tutta da un'altra parte rispetto alle stilografiche. Intanto bisnonno era un pioniere, perché è partito per andare in Stati Uniti ed ha convinto qualcuno avendo forse neanche 18 anni. Sì, il mondo va da un'altra parte, ma io sono convinto che ci sia spazio... C'è il mercato dell'eccellenza. Sì, come il vinile. Va bene. Senta, computer, iPad, iPhone, quindi secondo lei non sostituiranno mai la scrittura a mano? Cioè torna il vinile, torna la scrittura a mano? Ci hanno dato per morti quando arrivavano i computer, non siamo morti. Ci danno morti per la digitalizzazione, non siamo morti. Quest'anno abbiamo venduto il 67% di stilografiche in più, continuino così. Va bene, a darvi per morti che per voi va bene. Senta, ma che cos'è che secondo lei dovrebbe essere sempre scritto a mano? Le riflessioni più profonde e gli appunti dove quando pensi davvero ti rimangono sicuramente fissati in un modo diverso. La mano ti aiuta a pensare. Assolutamente sì, ci sono anche degli studi neurologici, non la voglio annoiare. Non mi annoio perché anch'io scrivo a mano. Ma ad esempio le lettere d'amore scritte a mano, secondo lei hanno un sapore diverso rispetto a quelle scritte a computer? Assolutamente sì. Sì, eh? Non potrei sopportare un ti amo scritto con un computer. Sì, le hanno sempre scritte a mano lei. Ma sono della vecchia generazione, vorrei che anche mia figlia ricevesse delle lettere d'amore. Scritte a mano. Sì, per il momento le hanno tappezzato la macchina con tutti i cuori e con dei post-it. Vabbè, che mi è sembrato un buon inizio. Senta, Pansa è grande giornalista. Qualche giorno fa qui in Faccia a Faccia mi ha detto che lui ha imparato invece a scrivere sul computer proprio scrivendo lettere d'amore. Allora ha fatto male, saranno brutte lettere. Non lo so, non le ho ricevute io. Io dico solo che Steve Jobs, la cosa che ha imparato è come la filosofia dei suoi prodotti sono nati da un corso di calligrafia. Non tutti lo sanno, ma è una parte importante. Molto importante. E lei scrive solo a mano o no? Io scrivo molto a mano. E con che penna scrive? Una bella penna stilografica che aiuta i cinque sensi. Ah sì, un'Aurora immagino. Potrebbe essere. Sarebbe bello. Senta, oggi la sede dell'Aurora è in un'area di circa 10.000 metri quadri ad Abbadia di Stura, dove sul tetto dell'azienda sventola un'enorme bandiera italiana. Perché ha messo il tricolore? Perché non me ne voglio andare da questo paese. Ma le sue... Dica. Ed è una promessa che ho fatto ed è una sfida che abbiamo forse vinto. Ma le sue penne sono tutte made in Torino? Sono tutte fatte in Italia e fatte a Torino. Ma quanti pezzi fate all'anno? 40.000, 50.000. E cosa producete di più? Stilografiche, penne a sfera, che cosa? Stilografiche in questo momento. Stilografiche. E il mercato più forte qual è? Abbastanza 88% obiettivo all'estero, fatto 100 all'estero, 40-50% il Far East e Middle East, 30% America e 20% Europa. Senta, ma è vero che una penna stilografica può costare da un minimo di 30 euro, massimo di 1.000 euro? In realtà può costare anche molto di più. Infatti ho letto che ne avete venduta una a 350.000 euro. Non lo dica mia moglie, che ne ha vendute più di una a quel prezzo. Più di una? Ma è genio sua moglie. È brava. Ammazza, ma non si deve dire in radio, ma è brava. Ma a chi l'ha trovata? Chi se l'è comprata una penna a 350.000 euro? Diciamo qualcuno che... Chi era? Diciamo una famiglia reale. Ah, una famiglia reale, va bene, del sud del mondo. Esatto. Va bene. Senta, ma qual è la penna più straordinaria che avete fatto, secondo voi? Alcune saranno quasi dei pezzi, delle opere d'arte. È difficile, in una storia centenaria, è difficile dire qual è la bambina meglio riuscita, però ce n'è un paio. Avrò 88 di Nizzoli, la Sterope e la Astil. Senta, ma è vero che ci vogliono oltre 200 operazioni per fabbricare una penna stilografica? La gente dice, non pensavo, non credevo, non sapevo, però è così. Ma sono tutte operazioni fatte da macchinari o ci sono dei passaggi ancora fatti a mano? Assolutamente, macchine guidate dall'uomo e dalle mani dell'uomo e delle donne. E quali sono i passaggi a mano? Cioè, oggi lei ha circa una 60 di dipendenti, di cui l'80% sono donne. Hanno mani di fata, insomma. Hanno mani di fata e occhi attenti e gusto, e sono sicuramente molto rigorose. Senta, ma nella sede della sua azienda campeggia una scritta e dice: la qualità è la forma più pura di rispetto per il consumatore, che è una frase di Michele Ferrero. Lei questa qualità come la garantisce? Intanto mi è sembrata una frase importante e profonda. La garantiamo impegnandoci tutti i giorni nel rispetto dei nostri consumatori, lavorando seriamente, con onestà, e facendo le cose davvero e raccontando quello che facciamo con trasparenza. Senta, ma è vero che sua moglie, che l'ha detto, che lavora con lei da 5 anni, un giorno sì l'altro anche, invece dalle dimissioni chiede di essere messa in cassa integrazione? Assolutamente sì, perché lei è troppo insopportabile, eh? Pare di sì, vuole licenziarsi, non la sopporta più. Sì, la moglie dopo 22 anni, però ce la facciamo ancora. Ce la fate ancora, però quel giorno si avvicina, mi pare, eh? Ma io dico che sono sposato da 66 anni, perché ogni anno con mia moglie vale 3, poi lei dirà la stessa cosa. Senta, ma di che cosa si occupa sua moglie? Di export, le ho dato il bambino. Le ha regalato proprio il bimbo cui teneva di più. Diciamo che ho pensato che fosse la persona che poteva prendere meglio quel tanto poco che avevo fatto. È più brava di lei, però. Non bisogna dirlo, ma lei lo pensa sicuramente. E lei lo pensa? Io penso che lei sia molto brava. Più di lei? Mi è difficile dirlo. Difficile dirlo, però lo pensa. Va bene. Signora, è più brava di lei, di lui. Senta, se sua moglie lavora con lei, sua madre invece, prima che lei diventasse amministratore delegato, non aveva mai varcato i cancelli dell'Aurora, perché suo padre non voleva. Sembra incredibile, ma è così. Suo padre non voleva? No. C'erano troppe donne che lavoravano. Le donne portano problemi, secondo la sua logica. Cioè, era gelosa? No, probabilmente aveva avuto anche esperienze. Io invece penso di riuscire a lavorare meglio con le donne. Ma per portarla a visitare l'azienda, lei ha dovuto chiedere permesso a suo padre? Sa che noi veniamo da una famiglia piemontese di lunghe tradizioni, ci sono delle cose super patriarcale. Esatto, che bisogna chiederle bene. Poi alla fine è arrivato papà da una parte, che è andato a salutare le operaie, e la mamma è riuscita a varcare il fatidico portone. Fantastico. Senta, ma è vero che in Aurora c'è una persona che si occupa solo dei pennini? Filippo dei pennini. Sì. Ma come si fa un pennino? Bisognerebbe chiederlo a lui, però ci lavora con una ventina di operazioni ed è una cosa affascinante insieme alle sue. Ma quanti anni ha Filippo? Una cinquantina. Speriamo che duri. Durerà. Poi gli affiancheremo qualcuno che imparerà il mestiere. Senta, dunque, Filippo è il maestro dei pennini. E oltre a seguire tutti i 18 passaggi della fabbricazione del pennino, è anche quello che fa la prova finale di scrittura. Assolutamente. Pensi che in questo momento l'abbiamo portato in America a raccontare come si crea un pennino super flessibile e la gente è impazzita. Adesso in questo momento è in Spagna ed è appena stato in Olanda. Ma fate le riprese di queste lezioni? Più che lezioni, sono dei racconti di come si fanno le cose, perché la gente vuole sapere dietro gli oggetti, perché che è quella storia. Siamo dei grandi manifatturieri noi. Secondo me l'Italia lo è. Appunto. Ma è vero che dopo 15 giorni il pennino cambia personalità e adotta la personalità del suo proprietario? Assolutamente sì, perché la mano ha un fluire, un peso, un racconto e una storia, una velocità, e per cui prende forma, e per cui la mia penna probabilmente è adatta alla cioè mia... Cioè la stessa penna, non mia e sua, è diversa? Non necessariamente devono essere uguali, assolutamente. Come un paio di scarpe, si migliora usandola? Direi di sì. Senta Verona, lei ha detto questo paese è diventato la Repubblica degli chef, cosa vuol dire? Vorrei che questo paese non fosse una Repubblica degli chef, vorrei che fosse, che mantenesse la sua capacità manifatturiera, tenere e sapere raccontare. Far da mangiare, essere chef. Sicuramente sì, ma il nostro paese secondo me ha bisogno d'altro. Cioè cosa si è perso? Si è perso il valore del lavoro con la testa e con le mani. Far da mangiare, insisto, si fa con la testa e con le mani. Per carità di Dio, ma non riusciremo a portare questo paese a competere. C'ha paura di ingrassare, non vuole. No, sono già ingrassato perché in più ho anche aperto un ristorante, ma questo non vuol dire. Il messaggio è: vogliamo dare ai ragazzi la capacità e l'orgoglio di poter fare e diventare artigiani 4.0. Senta, ma perché si è persa la preparazione, lo studio, insomma il mestiere, la passione del mestiere? Posso dire perché? Sì. Perché penso che si fatichi di più. La fatica fa bene, insomma. Penso di sì. Ma Renzi ha fatto bene, lo dice che è quasi paura di dirlo, non abbia paura. Non è vero. Paura. Si fatica. Senta, ma Renzi ha fatto bene o male alle piccole e medie imprese come le sue, o niente? Ha dato, secondo me, una ventata di ottimismo da una parte e ha fatto e ha raccontato un pezzo del paese che forse non tutti conoscevano. Poi alcuni possono condividere alcune cose che sono state fatte, altre che sono state cancellate, penso che non sono così. Cioè voucher, per esempio, lei li avrebbe tenuti? Assolutamente sì. Penso che sia l'anticamera al nero di nuovo. E Jobs Act? ci sono dei punti positivi e dei punti negativi. L'ha usato lei? Sì. Le faccio sentire cosa mi ha detto qualche tempo fa Andrea Guerra, un grande dirigente d'azienda, l'ex amministratore delegato di Luxottica. Il tema vero è che quando noi parliamo di medie e piccole aziende, parliamo rispetto alla media europea di microaziende. Le microaziende purtroppo in questo mondo non hanno più significato. Ecco, purtroppo, a parte le eccezioni come la vostra, sta succedendo però questo. Io intanto ho grandissima stima di Andrea Guerra, gli ho spiegato che lo prenderei subito come amministratore delegato, ma non mi posso pagare il suo stipendio perché sicuro. È quasi pari al mio fatturato. Però detto questo, le microaziende italiane hanno il numero medio di 3 dipendenti, noi siamo piccoli. Però secondo me la risposta vale in funzione del mercato e del business. Noi stiamo su una nicchia e pensiamo di poterla difendere. Cioè la nicchia, la grande nicchia di qualità è una nicchia che ci sarà sempre quella. E penso che gli italiani abbiano... Il valore aggiunto deve essere sempre più alto però. Il valore aggiunto e la capacità di interpretare i desideri e i gusti dei consumatori, e secondo me gli italiani su questo sono bravi e sono capaci a fare le cose. Senta, sempre più spesso siamo davanti a esempi di marchi italiani però che vengono venduti all'estero. Siamo un paese in vendita in qualche modo, c'è questa sensazione? Non siamo un paese in vendita, siamo un paese che ha difficoltà e degli stranieri apprezzano quello che facciamo e alcune cose ce le comprano. I francesi hanno capito, ma comprano che siamo l'Italia praticamente, ma perché hanno una grande tradizione manifatturiera, hanno capito che qua si fanno le cose e si fanno bene. C'è la manifattura vera. Esatto. Noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma l'abbiamo dimenticato. E non siamo secondi alla Germania. No. Lei ha detto che ha avuto tante occasioni di delocalizzare la produzione, ma ha voluto a tutti i costi restare a lavorare in Italia. Ecco, questo quanto pesa sui costi di produzione? Quando tutti andavano in Cina mi davano del pazzo. Io quella bandiera italiana di cui lei ha parlato l'ho piantata quel giorno, ho detto io di qua non mi muovo e voglio dimostrare che in questo paese si possono fare imprese, imprese d'alto di gamma, mantenendo la produzione e la filiera. Bisogna essere onesti, raccontare al consumatore, c'è un costo in più. Può essere dal 10 al 30%, ma se sei bravo ed efficace ed efficiente, e noi abbiamo anche investito in tecnologia. Perché l'alto di gamma comunque garantisce anche degli utili maggiori, insomma un ricarico maggiore. Diciamo che se riesci a difendere il tuo brand, il tuo marchio, la tua capacità di innovazione e di creazione, riesci anche a difendere margini diversi. Certo, infatti se una penna fatta in Italia costa 10, se fatta in Polonia... In Cina costerà 3, in Polonia costerà 7, in Brasile costerà 6,5, ma è una roba diversa. Certo, sono tanti gli imprenditori che però hanno delocalizzato alcune parti del processo produttivo, eppure continuano a usare il marchio del Made in Italy, è giusto? Per me no. Ma secondo lei il Made in Italy è tutelato oppure no? Non abbastanza. Non abbastanza. Nella sua sede di Abbadia di Stura, accanto all'azienda, dottor Verona, lei ha dato vita all'Officina della Scrittura, cioè il primo museo al mondo dedicato al segno. Perché ha voluto fondare un museo dedicato al segno? Intanto perché volevo restituire qualcosa al territorio, perché mi sento sicuramente più fortunato di tanti, miei diciamo amici o persone che hanno la mia età. La seconda è che lasciare un segno vuol dire tramandare un qualche cosa, che poi anche può essere un sogno. Ecco, ma il rapporto col territorio è un rapporto forte? Per i piemontesi sì. No, ma per voi, la sua azienda, ha un rapporto forte? Dico, Abbadia di Stura non è Torino. No, è un rapporto forte perché c'è la più antica abbazia benedettina del 1146. Lì si pregava ma si lavorava. E quindi ora et labora un po' su messaggio di l'ora non lo so, ma lavora. Prego poco ma lavoro tanto. Senta, nel museo, in questo museo che abbiamo detto, all'Officina, sono esposti alcuni pezzi che hanno fatto la storia della vostra azienda, come l'Astil, ne parlava prima lei, Aurora, disegnato da Marco Zanuso nel 70, esposto al MoMA di New York. Oggi chi disegna le sue penne, se c'è qualcuno che le disegna ancora? L'ufficio stile e poi qualche idea magari può venire anche a me. Io non so disegnare per fortuna di tutti, anche a mia moglie qualche idea vengono viaggiando e girando per il mondo, tenendo gli occhi aperti e le orecchie accese. Si guarda e si ruba un po'. Si impara, si assimila. Diciamo si impara, mi sembra molto più elegante. Senta Verona, le faccio un'ultima domanda. Suo bisnonno, l'abbiamo detto, è stato il primo a importare la macchina da scrivere in Italia a metà degli anni 60. Suo padre ha inventato la famosa Auretta, la prima penna stilografica che abbandonava il calamaio e usava le cartucce, le famose cartucce. Anche questa è stata una rivoluzione. La sua rivoluzione per la quale vorrebbe lasciare quel segno di cui parlava prima, qual è? Creare un'azienda eccellente da passare alle nuove generazioni. Crearla forte, grande, flessibile, profittevole e poi magari avere anche un pezzo di felicità per la mia vita privata. Senta, ma lei ha parlato di azienda, non di prodotto. Il bisnonno e il papà hanno puntato sui prodotti, lei punta sull'organizzazione? Perché quella era l'epoca degli anni 60 in cui c'erano le fabbriche che producevano tanti prodotti. Oggi bisogna ascoltare il cliente per cercare di intercettare i segnali deboli o i segnali forti. E quindi l'organizzazione, secondo me, in parte ci aiuta. Ecco, ma la creatività dell'azienda 4.0 che caratteristiche ha, se quello è il suo, come dire, la sua eredità? Intanto è la tracciabilità di tutto quello che facciamo, trasparenza nei confronti dei nostri dipendenti e dei terzi, capacità di innovare, andare più veloce degli altri. Ecco, ma innovare, per esempio, il vostro rapporto con la tecnologia, fate penne con pennini, ma l'organizzazione del lavoro com'è? Sembra incredibile, ma noi siamo un'azienda che ha vinto già un bando di fabbrica intelligente 4.0 e la gente dice, ma come, fate penne stilografiche? Siete un oggetto antico, ma in realtà noi usiamo il mondo moderno e la tecnologia per fare delle cose che piacciono e che restano, speriamo. Io me lo auguro davvero per le nuove generazioni, che non firmino con lo stampatello. L'ultima volta un sindaco mi ha detto, ho dovuto rifiutare un matrimonio perché la persona non era più in grado di firmare, ha firmato in stampatello, ha detto questa non è una firma. Vabbè, dove regalargli un'Aurora. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. Mix 24. Vabbè, bellissima questa storia, dell'Aurora. La mia prima penna, quando ero adolescente, il mio primo regalo importante, la penna, fu un'Aurora. Volendo oggi fare un titolo, se posso, devi, farei stilo, calma e voluttà. Stilo, calma e voluttà. E Franco Tommasini da Genova ci scrive: mio padre mi regalò un'Aurora nell'88, nel 48. Ce l'ho ancora, perché sul mercato si fa fatica a trovarne? Ce n'hai una, tientela e goditela. Ma canzone, basta pagare. Together now, time together on the snaky road. There ain't no time together now, time to spend together on the snaky road. Allora? Allora hanno preso posto negli specchietti retrovisori delle locomotive pendolari oggi, hanno evitato i sedili corrimano e si sono accomodati nei riflessi delle finestre dei convogli affinché, resi sfuggenti nella corsa, ognuno di loro fosse come un battito alloggiato nel cuore di chi li pensa, di chi li vuole, di chi li aspetta. Ha chiamato Didone, ha fatto sentire il clacson del proprio tir con un messaggio per Enea: dove posso scaricare tutti gli abbandoni? Tu mai dove li scarichi gli abbandoni? Bella domanda, ce ne parecchie. Domandona, un domandone, riflettiamoci tutti. Senti, dove andiamo? Ce ne ho proprio, io ne ho proprio. Altro che tiro, siamo. Vai con la tua bolla. Vai, senti qua, Carole King. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing. Maybe we just stop trying. Allora. Too late, è troppo tardi, sicuramente lo è per Alitalia, almeno questa è la mia opinione. Contento se fosse smentita in futuro, ma insomma è un po' difficile. E segnalo che nel mondo dell'aviazione civile succedono molte cose e indicano una tendenza del mercato molto precisa, cioè grandi alleanze, grandi vettori e anche grandi costruttori. Alitalia è un nano tra i giganti, l'alleanza con Etihad, che poi l'ha preso la gestione eccetera, si è rivelata fallimentare dopo 3 anni e un investimento di 400 milioni. American Airlines, ecco il chiodo al quale appendiamo il quadro, comprerà una quota rilevante di China Southern, che è una delle più grandi, forse la compagnia aerea più grande dell'Asia, se non sbaglio ci ho viaggiato una volta, si viaggia bene, e quindi consolida diciamo il suo ingresso nel mercato asiatico, che è il mercato più ricco in questo momento, quello del Far East. Segnalo che i dati IATA, che è l'associazione delle compagnie aeree, hanno un traffico civile che è partito benissimo anche nel 2017, è andato fortissimo nel 2016, tutti hanno fatto utili stellari. All'Italia no. E allora ragazzi, è troppo tardi. E c'è anche un'altra considerazione che ha fatto anche il Wall Street Journal l'altro ieri: il piano è troppo tardi e troppo piccolo. Salamino! Alto là, chi va là? Non si entra a Taormina. Il 26 e il 27 maggio ci sarà Taormina in Sicilia, il G7, ma il Consiglio di Stato blocca un appalto. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. E vengo qui anch'io. Consip ci cova. La centrale acquisti della pubblica amministrazione s'adopera per i badge e i sistemi di sicurezza. Alto là, chi va là? Ma la giustizia amministrativa blocca tutto. Mancano 60 giorni al G7. Solo 3 mesi fa, come ricorda oggi Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, è stato registrato il dominio del sito in rete. Le strade d'accesso sono tutte arripizzate e la gara d'asta per risolvere l'ingresso di 20.000 persone in città, sia da Porta Catania sia da Porta Messina, è bloccata. Non potranno entrare a Taormina se prima non si risolve i busilli, i fotografi, i cameraman, i cronisti, gli assistenti, i cuochi e neppure gli autisti, i macchinisti, gli uomini di fatica, i pompieri, i cancellieri e neppure i carabinieri, visto che senza tesserini e relativi badge elettronici non si potranno oltrepassare i varchi. E quindi non ci saranno neanche terroristi. No. Non ci sarà nessuno. Alla vicina del mondo mancano le autorizzazioni. Va Qualcuno però, Giovanni, pensa di andare per le spicce. Capitano, lo posso torturare? Cosa vuoi torturare? Non potranno circolare, caro Giovanni, neppure i residenti e forse nemmeno i leader di Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti d'America. Giovanni, se non arriva a Taormina Melania Trump, ci sarà da restarci male. Quando arriva avvisami, perché ma non arriva, perché qualche difficoltà l'avrà anche il conte Paolo Gentiloni Silveri con la Ilunga di Alfieri, che è il presidente del Consiglio, che alla propria richiesta di sblocco del ricorso contro l'appalto concesso dalla Consip si è visto rispondere: no, un attimino, ora vediamo, adesso ci pensiamo, torni un'altra volta, niente imminente, e insomma adesso non si può fare niente. Insomma, la gara per il controllo degli ingressi è congelata. In ogni modo, caro Giovanni, caro Mario, si è capito, sapete come finirà? No. Sapete come finirà? No. Finirà così. Chi siete? Quello che è passato adesso col caro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Finirà così. Finirà così e forse ai noi non verrà Melania, che se ci pensi in fondo, Giovanni, è la più bella delle ragazze dell'est, per dirle con la Perego. Beh, che ormai è passata alla storia. Beh, no? Questo applauso, scena aperta. Viva la Perego, ok. Bolla. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Sai, nelle radio dicono oggi è giovedì, domani è venerdì, evviva, arriva il weekend. Poi il venerdì dicono evviva, domani è sabato, evviva, e poi dicono domani è domenica. E allora? E la domenica dicono uffa, domani è lunedì, però poi è martedì. Ma vabbè. Allora, vabbè. Nelle radio dicono così. Noi invece ci occupiamo della bancarotta nucleare, molto interessante. Molti di voi ricorderanno un antico, glorioso e importantissimo marchio del settore della tecnologia mondiale, cioè la grande Westinghouse, che faceva anche i frigoriferi all'inizio della sua avventura. Fu la più grande, l'azienda rivale di fatto della General Electric, che fu fondata da Thomas Edison. E ragazzi e signore e signori, la notizia è che potrebbe dichiarare bancarotta. Dieci anni fa passò ai giapponesi per circa 5 miliardi. Le cose nel business nucleare non sono andate benissimo per tutta una serie di fattori, grandi costi di gestione eccetera, e in queste ore potremmo vedere il declino definitivo di una grande storia. Pace all'anima loro. Tutto finisce, Giovanni, anche gli abbandoni, vorrei dirtelo. Sei arrivato alla fine, canzoniere. Da mo che sono arrivato alla fine. I suoi difetti erano anche i miei. Tutte sue le virtù l'amai e distrussi. Con le tue mani? Non con le mie mani. Il mio cuore spezzò il suo cuore. Il suo fissò il mio e appassì. Mamma mia, tristezza. A 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS per chi indovina. Ma intanto pubblicità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Mix 24. Io non vedo ancora l'Italia che sognavo, e questo rimane un compito che attende i giovani, ma sono convinto che sapremo reinserire l'Italia fra le società più avanzate dell'Occidente. Esiste ancora un grande avvenire per il nostro paese. L'Italia che ci ha lasciato non è quella che sognava Ugo La Malfa, uno dei principali leader politici della storia italiana del secondo Novecento. Palermitano, segretario del Partito Repubblicano Italiano dal 1965 e presidente dal 1975, La Malfa fu più volte ministro e vicepresidente del Consiglio. Antifascista, esperto di discipline economiche, laico, lottò per una sinistra capace di governare e partecipò al sogno di un'idea d'Europa che andava nascendo. Io ho avuto due momenti in cui ho guardato l'Europa con estremo interesse, il resto l'ho guardato in tutta la mia vita politica. Un momento per me entusiasmante fu il 1951, quando fui ministro del commercio con l'est. Io allora aprii le frontiere, abolii i contingenti e abbassai i dazi del 10%, feci la cosiddetta liberazione degli scambi. Ugo La Malfa vive gli anni che vanno dalla nascita della Repubblica fino ai giorni del rapimento di Aldo Moro nel 1978. In quella situazione La Malfa aderisce alla cosiddetta linea della fermezza, che negava ogni possibile trattativa con i rapitori. Muore a Roma un anno dopo il rapimento di Moro, il 26 marzo del 1979. A Ugo La Malfa, appunto, grande europeista, è dedicata alla puntata della storia, come sempre dopo il giornale radio. Intanto abbiamo Giulia da Bologna per il canzoniere. Buongiorno Giulia. Sì, buongiorno. Allora ci dica. Lord Byron e Manfredo. Giusto, giusto. Bravissima. Cosa fa Giulia a Bologna di bello? Sono casalinga, sono di quelle che ha lasciato il lavoro per la famiglia qualche anno fa. Ma purtroppo lo dice con una voce triste. Insomma. È pentita? No, pentita no, si hanno delle soddisfazioni in entrambi i casi, ecco, però a volte pesa un po'. Quanti figli ha? Due. Vabbè. Sì, loro magari sono contenti che lei molto, sia rimasta a casa. Sì, molto, molto. Va bene. Mi danno tante soddisfazioni anche loro, devo dire. Auguri Giulia. Grazie. Adesso, come sempre, il professor Roberto Bernabei commenta le notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Lancet, febbraio 2017. Cibo organico e salute. Il cibo organico è quello prodotto senza l'aiuto di pesticidi. E allora mi ha colpito leggere questo editoriale, soprattutto perché recentemente ho letto un libro di un manager dell'industria alimentare che rivelava quello che arriva sulla nostra tavola dopo che facciamo quella che riteniamo una normalissima spesa al nostro supermercato favorito. Spesso arrivano delle cose orribili, delle cose che sono molto più dannose di quello che pensiamo. E allora vedere se il cibo organico è più salutare di quello non organico, cioè quello coltivato con i pesticidi, è il soggetto di una relazione commissionata dal Parlamento europeo a un gruppo di ricercatori che hanno rivisto studi in vitro su animali e su intere popolazioni. Beh, si conferma intanto che l'argomento è studiato poco e che lo studio più importante, lo studio Parsifal, condotto su ragazzi, bambini tra i 5 e i 13 anni, ha notato che ci sono meno sintomi allergici in quei ragazzi che mangiano cibo organico prevalentemente. L'osservazione si completa perché ci dice anche che mangiare in gravidanza cibi venuti su con pesticidi ha influenza sull'intelligenza e sullo sviluppo comportamentale del nascituro. Quindi, senza fare battaglie terrificanti sulla importanza del cibo naturale, beh, è evidente che i pesticidi possono provocare dei problemi. Naturalmente averci cibo senza pesticidi ha dei costi molto maggiori, per cui tutto questo deve essere messo nella valutazione generale, però vi ho detto che qualche prova che il cibo organico è meglio di quello non organico l'abbiamo. E per chiudere, Francesco De Gregori con Vecchi Amici. Tu sei seduto nel buio, io lavoro nella luce. Tu sei seduto in silenzio, io vivo con la mia voce. Tu sei seduto comunque, dovunque, qualunque cosa fai. Tu sei un ragazzo pulito, hai le orecchie piene di sapone. Sarà per questo che non distingui più la regola dall'eccezione. Quando ritocchi la punteggiatura del tuo ultimo capolavoro e ti rivolti nella mala fede, poi firmi con la tua penna d'oro. Dimmi come ti va, come ti senti. Dimmi come ti va e come ti addormenti. Dimmi come si sta, come ti senti. Se c'è qualcosa di cui ti penti, lo sarà bene tutto così.